si yo viene el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Certo, è una gran fatica per me, dopo che per tanto tempo ho fatto il provolone minchione a questi microfoni, parlare questa mattina nel ruolo di padre, ma abbiamo anche questa occorrenza, questa benedizione della vita, quindi parliamo oggi dei nostri figli. Parlare dei figli, è facile, finché sono piccoli, sono batuffolini adorabili, sono belle esperienze di gruppo, carini da portare in giro, carini da coccolare, sono oggettini dolci e teneri da esibire, sono degli status invidiabili, e tutti i nostri coetanei cinquantenni ci guardano con la bavettina di invidia: c'hai i bambini, beato te, quanto li vorremmo, quanto li abbiamo desiderati. Oppure mascherano l'invidia, dicono: ah, che schifo, c'hai figli, noi siamo liberi, noi possiamo andare nella nostra masseria in Puglia, per tornare alle nostre vicende di ieri, possiamo fare una vita libera, vedere gente, uscire, abbiamo un bel terrazzo e ci godiamo la vita, che farne di... Beh, tutte cose che si dicono, che non si dicono, si pensano. Nessuno è mai sincero quando si parla di figli, né sono sinceri i genitori quando parlano dei propri frutti, della loro vanagloria, del loro amore, del loro atto distratto e via dicendo. Nessuno è sincero quando valuta i figli altrui. Molte volte si odiano, molte volte si sentono come dei limiti, molte volte in realtà si guardano come grandi equivoci. Questa mattina vorrei parlare di un momento fatale che capita nella vita di ogni genitore quando ci si accorge, e probabilmente accade soprattutto alla nostra generazione dei cinquantenni e oltre, i nostri figli, i nostri batuffoli, l'oggetto della nostra gloria, improvvisamente ci accorgiamo che sono diventati adulti, ci guardano con uno sguardo severo, con uno sguardo inquisitore, ci accorgiamo che siamo noi bambini. Io sto cominciando ad accorgermi verso mio figlio tredicenne che io sono il bambino e lui è l'adulto, mi guarda con rimprovero, mi dice: papà, ma ancora giochi con il computer, papà ancora pensa a queste sciocchezze, papà non dire le parolacce. Ma questo nelle occasioni migliori, che poi ci sono un'infinità di altre situazioni in cui è difficilissimo fare i conti con questa invenzione contemporanea che si chiama adolescenza. Oggi siamo nelle mani degli adolescenti. Gli adolescenti rappresentano il nostro grande cruccio, perché probabilmente la gran parte della classe pensante contemporanea, almeno nel nostro paese, è fatta di adolescenti ancora non guariti dal morbo dell'adolescenza. Oggi leggo una cronaca interessante. A Biella c'erano i bulli che distruggevano i pulmini che portavano i ragazzini a scuola, e non sapendo come risolvere il problema dei bulli che creavano casino, confusione e danni negli scuolabus, hanno deciso di nominare i bulli capi dei pulmini. Ogni pulmino ha un bullo come capo, che lo dirige, che tiene gli altri sotto, ha avuto i galloni di colui che comandava, dice la compagnia che gestisce il trasporto, e sono felici, non ci sono più danni. Ma io penso: qual è il clima in quel piccolo bus in cui è stato dato il suggello di autorità a colui che era semplicemente un ragazzo da prendere calci nel sedere? Era qualcuno che aveva mal interpretato la sua leadership, la sua strafottenza, la sua mancanza di controllo, la sua possibilità di esercitare sugli altri un potere vessatorio. Quella società che oggi viene celebrata come una grande trovata ha semplicemente dato all'adolescente bullo la patente di esistere, di poter esercitare non tanto sui suoi contemporanei, sui suoi coetanei, ma anche sui suoi genitori, sugli adulti. Ha sancito il fatto che la strafottenza adolescenziale è un valore da conservare. Sono passato davanti a una scuola occupata in questi giorni. Era meraviglioso vedere questa metafora di un momento epico che quei ragazzi non hanno conosciuto, ma nemmeno le loro mamme, che trepidanti, i loro papà che con i pantaloni di velluto stanno fuori di quelle finestre in cui i giovani occupavano, hanno mai conosciuto. Sono troppo giovani oggi i genitori di adolescenti per aver conosciuto realmente quel momento fintamente, fallacemente epico che viene chiamato il momento della rivolta giovanile. Non l'hanno vissuto, e quindi l'hanno visto anche loro hanno avuto la loro Disneyland della rivoluzione studentesca, e oggi portano i ragazzi per la mano, portano loro il panino, portano l'hamburger caldo, portano il maglioncino perché non si freddino, perché possano vivere la gioia e la meravigliosa avventura della contestazione studentesca. Né fuori né dentro da quella scuola occupata sapevano esattamente perché fossero lì. Stanno recitando la parte, stanno rivivendo un momento, era come un videogame, era come una rappresentazione che si fa nei tanti comuni italiani in cui c'è il Medioevo inventato. Ecco, le Proloco inventano il Medioevo, nelle città le famiglie inurbate inventano la contestazione. Mi chiamo Alessandra, ho due figli, uno di 12 e uno di 11. Quest'anno il grande va in seconda media e si sente un po' più furbo, no? Ha capito come funziona e come gira il fumo. Quindi sa benissimo quali sono le ore importanti di lezione per cui bisogna stare bravi e zitti, di chi si può approfittare e di chi non si può approfittare. Chiaramente tutto questo senza parlare con me, perché io i ragazzi di questa età, perlomeno mio figlio, è sempre stato assolutamente omertoso, quindi io di quello che succede in classe sua non ho mai saputo assolutamente nulla da lui. Chiaramente lo vengo a sapere da altre mamme, dai professori quando mi parlano, eccetera. Ecco come avviene il processo di formazione dell'età ipotetica e illusoria e probabilmente molto letterare, molto calcata dai genitori professionisti da una parte, dai lettori professionisti delle crisi adolescenziali, dagli adolescenti che sono ben contenti in un momento di totale confusione in cui non esiste uno spartiacque preciso tra l'infanzia, la fanciullezza e l'età adulta, che si crogiolano di questo equivoco. Ecco, inizia così, inizia che a un certo punto il genitore perde il contatto con il figlio, avviene qualcosa in un ambiente che lui non conosce e che cresce e alimenta questa sorta di germe adolescenziale già nel ragazzino di scuola media. Un giorno una mamma mi ferma fuori dalla scuola e mi racconta che la figlia in classe era bersagliata da dei compagni di scuola. Io molto ingenuamente ho detto: vabbè, ma che cosa è successo? Dimmi, vediamo che cosa. Dice: no, sai, l'altro giorno addirittura la goccia che ha fatto traboccare il vaso gli hanno appiccicato una gomma sui capelli. Va bene, dice, ma guarda che c'è anche tuo figlio in mezzo. Ah sì, sono dei piccoli sintomi, secondo me, di bullismo strisciante, no? Che avvengono anche fin dalle elementari, che però se non vengono presi in tempo, cioè se uno lascia correre e non ci mette il carico da 11... Interrompiamo il racconto di questa mamma che ci ha gentilmente porto nella formazione, nella genesi dell'adolescente, e introduciamo l'ospite di questa mattina. È Vera Slepoi. Vera Slepoi, buongiorno. Buongiorno. Vera Slepoi è una mia amica, la conosco da tanti anni, a volte l'ho vituperata, a volte l'ho amata, ha scritto un libro interessante, L'età dell'incertezza, Mondadori, che parla proprio di capire l'adolescenza per capire meglio i nostri ragazzi. Vera Slepoi ha una caratteristica particolare, non si proclama professionista dell'analisi dell'adolescenza, ma individua un momento fatale che probabilmente nessun analista ha individuato in maniera così lucida, che l'adolescenza in realtà non è un fatto biologico, non esiste, è semplicemente una convenzione, almeno così l'ho letto il tuo libro, Vera, una convenzione che abbiamo stabilito noi, perché non sappiamo più ricostruire un momento reale, preciso, univoco di passaggio dall'infanzia all'età adulta. Esatto, non è una malattia, anzi mi inquieta un po' questa tendenza che abbiamo ossessiva ad occuparci, ad esempio, dell'associazione tra adolescenza e bullismo. Sembra che l'unico paradigma oggi possibile per l'adulto è occuparsi del bullismo, dei fenomeni attinenti a questi elementi che fanno parte oltretutto della storia, della crescita di tutta l'umanità, cioè quando in qualche modo ci si incontra in situazioni dove la tua identità viene messa in discussione, i processi di crescita sono questi. Ma non sarà che gli adolescenti non hanno altre occasioni epiche che proclamare il loro bullismo, che è una forma deleteria comunque, non so, dell'attivismo, della vitalità, esatto, del momento di passare dall'essere bambino all'essere adulto. Una volta portavano i bambini nella foresta e lasciavano lì con un bastone in mano, esatto. Dice: quando tu torni sano sei adulto. Erano i cosiddetti riti di passaggio. Io ho voluto dedicare proprio tutto il primo capitolo del libro nel far sì che il lettore prima si deve liberare di tutti i pregiudizi e di tutte le false interpretazioni che noi diamo all'adolescenza e introdurlo in tutto quello che riguarda gli aspetti significanti dell'adolescenza che ha avuto nella storia. Poi fargli comprendere che l'adolescenza è solo un rito di passaggio, che l'individuo per diventare adulto ha bisogno di mettersi in discussione, ha bisogno di formare la propria identità. Sì, però Vera, un rito di passaggio non ha mai durato 20 anni. È un rito di passaggio che non è mai avvenuto, attenzione, perché le ultime generazioni, la nevrosi e l'angoscia del genitore è di far sì che non ci sia nessun passaggio, o perlomeno dovrebbe avvenire il passaggio della formazione della propria identità e della coscienza di sé, senza, come si può dire, senza creare troppi problemi al genitore. Oggi il genitore non vuole essere disturbato nella propria esistenza molto egoica legata esclusivamente al mantenere la propria tranquillità, cioè la Vera, che non deve rompere. Non siamo genitori rassegnati, ancora abbiamo tante cartucce da spararci, vorremmo vivere tranquillamente la nostra illusione di eterna giovinezza, quindi un figlio adolescente va a cozzare con un genitore che spesso ha le stesse esigenze di relazione, di gratificazione. Non dirmi bravo, sennò sembra ci siamo messi d'accordo. Contraddicimi. Ma non posso essere contrario, perché io dedico tutta una parte, anzi nell'introduzione già lo dico, che il problema è che oggi l'adolescenza non viene in realtà concessa, perché l'adolescenza la vive permanentemente molto spesso un genitore. Il genitore si innamora dell'idea di genitorialità, però poi rimane un'idea, il bambino comunque deve essere il prodotto di una sorta di fiction simbolica, perché di fatto un genitore non riesce a dare le indicazioni, le regole, si preoccupa molto di quelli che possono essere i risultati ad esempio di un'azione punitiva, cioè dare delle regole fa sì che il bambino in qualche modo reagisca. Anche perché il genitore, Vera, ha come obiettivo solo essere amato. Sì, essere amato, oddio, io ci ho messo una vita per capire che le regole, meno se ne hanno e meglio si sta. Trovo un po' difficile onestamente trasferire, al contrario, a mio figlio la necessità di essere regolato. Ma sentiamo Gianni cosa da dire. Gianni, buongiorno. Sì, ciao Gianluca. Ma io riparto proprio da queste considerazioni che stava facendo Vera, no? Che noi ci innamoriamo di questa idea della genitorialità che è diversa da quella che avevano i nostri padri. Io sono un padre direi abbastanza felice, non sono padre di un adolescente, perché mio figlio ha 30 anni, quindi è nato nel 50 e abbiamo vissuto, a mio avviso, noi di quell'epoca La più bella epoca della storia dell'umanità. Sì, ripeto. Perché non c'era la guerra, solo per quello. Esatto. Va bene, non siamo andati in Vietnam, noi qui, magari i nostri amici americani, coetanei, l'hanno fatto. Sì, ma sono tornati abbastanza messi male, non è direi che sono... proprio di sì. E, dicevo, siamo chiaramente figli di però abbiamo vissuto anche quel mito, l'abbiamo vissuto come riflesso. Era una delle idee forti, nessuno si sporcava le manine, nessuno si bruciava le gambine, nessuno si mangiava le manine, però avevamo tutti ben vicino e ben presente questa idea della guerra del Vietnam, che perlomeno agli bori della nostra generazione sarà una delle molle forti della possibilità di sentirsi eroi guerrieri senza nemmeno essere toccati dalla guerra. Esatto, e dicevo, noi abbiamo costruito la nostra forza o debolezza di genitori su tutti questi principi, no? E abbiamo avuto, noi siamo stati genitori anche, non dimentichiamolo, che sono cresciuti sì con il 68, con la rabbia eccetera, ma anche i genitori che sono cresciuti con la professoressa di lingue Angelica alla corte del re eccetera, ma vedi, siamo stati i primi nella storia ad avere queste aperture. Sì, diciamo che la nostra educazione sentimentale al pecoreccio in parte fa sì che oggi mio figlio mi guardi scandalizzato quando vede fare un apprezzamento, quando vede scherzare. Perché, Vera, oggi l'adolescenza manca di questa lettura boccaccesca, o è estremamente puritana o è violentemente trasgressiva in maniera quasi patologica? Io direi che l'elemento forse più eccezionale di questo tipo di adolescenza nostra contemporanea è essere privi, cioè l'adolescente oggi è privo della curiosità trasgressiva o di avere una propria opinione personale. Cioè, quello che riguardava il passato era l'eccellenza dell'individualismo, non individualismo in senso chiaramente in contrapposizione con l'altruismo e quant'altro, ma in qualche modo si era adolescenti, ci si formava un'idea ed era necessario in tutta la storia dell'umanità, era necessario formare una propria idea di se stessi e del mondo per affrontare poi le responsabilità del mondo esterno, cessata l'infanzia, ma era importante avere una propria originalità. Oggi l'adolescente non ha il desiderio della trasgressione, a parte perché non esiste la trasgressione, perché la consumazione nell'immaginario collettivo in cui si può usufruire e fruire di tutti i tipi di erotismo o erotizzazione addirittura dei messaggi impediscono un desiderio trasgressivo, ma quello che inquieta è che non c'è un desiderio in quanto tale di appartenere a un mondo individuale, c'è un'omologazione per cui le due tipologie di educazione, di pulsione sentimentale che tu hai detto, appartengono al mondo dei media. Allora sentiamo, Vera, vorrei continuare con quella mamma, se no ce la perdiamo d'occhio, perché è interessante vedere nel percorso di osservazione, Vera Slepone nel suo libro parla che in fondo il vero problema è proteggere ma allo stesso tempo sorvegliare, che in realtà sembrano due termini che non vadano molto d'accordo, qualcosa che devi proteggere poi non dovresti sorvegliare, dovresti lasciare andare con le sue gambe, proteggere significa dare possibilità di maturare la propria individualità, ma sembra impossibile e in questo confermare e celebrare il luogo comune entrano in gioco quelle che io chiamo le protesi emozionali, che sembra che siano il punto di caduta in cui il controllo del genitore va veramente oltre le proprie capacità poi di conoscere gli strumenti di controllare il proprio figlio. Sentiamo questa mamma. Sia il telefonino che il computer. Il computer, vabbè, chiaramente c'ha tutti i filtri perché mi sono organizzata, ci lavoro nel settore e quindi mi sono organizzata per filtrargli tutto, per cui non può andare su siti particolari, insomma, porno, eccetera, perché ci sta il filtro. Chatta un pochino con Messenger, ma niente di che. Gli ho detto che è molto pericoloso, che su Messenger non devono dare confidenza a nessuno, se sono degli sconosciuti non si devono assolutamente, li devono cancellare, li devono bloccare, e quindi diciamo che per il momento mi ascoltano tutti e due, poi santità, arriverà il momento che mi fregheranno, questo è poco ma sicuro, insomma. Per quello che riguarda i telefonini, so che girano filmini più o meno spinti su alcuni cellulari, però a parte il fatto che lui ha un muletto di casa, quindi poverino non può ricevere filmati, quindi probabilmente si sente un po' coso, però chiaramente questi filmati vengono mostrati e fatti vedere in giro. Provo tenerezza per questa mamma 800240024 che pensa che impedire l'upgrade dei congegni e tecnologie al proprio figlio gli salvaguardia la virtù. Noi abbiamo iniziato più tardi, mi ricordo che c'erano i miei compagni di classe che andavano nelle cabine, nelle fotografie quelle a scatto, no? Si fotografavano i genitali e ce li facevano vedere, e chiaramente adesso col cellulare è diverso, però non è che cambia di molto, saranno corazzati anche contro di questo, non puoi bloccare tutto, cioè stante il fatto che sono sicura che mio figlio per il momento non lo fa, però sicuramente certe cose girano e è difficile pure bloccarle. L'unica cosa è cercare di fargli capire tramite dei commenti, quando si commenta a casa, di dirgli che è uno sconcio, che ne so, che c'è un episodio particolare e viene filmato col telefonino per ricordo, e dico guarda quei cretini che stanno lì e fanno la fotografia col telefonino dell'incidente perché devono far vedere sangue sulla strada, cioè ci provi, diciamo, però non è che sei sicuro che poi il messaggio arrivi. Questa mamma che pensa che le falloforie digitali siano ben più pericolose che magari lasciare il figlio a disposizione di una chat aperta, di un messenger che chiunque può contattare, ma l'immagine, l'iconografia forte e spinta forse le alimenta un ricordo della sua adolescenza a sua volta, e pensa che sia qualcosa che in fondo vale la pena di contenere, e con questo ha fatto il suo dovere. Io sul suo telefonino a controllare i messaggi non ci sono mai andata, non è una mia cosa, insomma, non è una cosa che mi scoccia molto, vorrebbe dire entrare proprio nel suo privato. Secondo me lui sa che certe cose non si devono fare e spero che ci si attenga, però ecco, a meno che non abbia proprio un'imbeccata di qualcuno che mi dice attenzione, guarda che è tuo figlio che fa questa cosa, che manda in giro filmati pornografici, eccetera, allora forse entrerei un po' più, no? Andrei a fare la Gestapo di turno. Però in questo momento mi sento un attimino di lasciare, cioè secondo me quella è la sua privacy. Mi scoccerebbe altamente che qualcuno venisse a controllare i messaggi del mio telefono. Nessuno lo fa e quindi di conseguenza io abito mio figlio che nessuno deve andargli a controllare i suoi messaggi. 800240024 mi sembra che abbia messo già molta carne al fuoco. Contenere l'adolescenza, salvaguardare l'adolescenza, il bullismo, l'accesso alla pornografia sembrano i pericoli più gravi. Melog 2.0. Mia figlia ha 10 anni, ha un computer, ha un telefonino che cerchiamo di farlo il più possibile, ha una casella di posta elettronica e ora vuole un account sul Messenger e una webcam. Io non gliela compro, ma cosa ne pensi? 800240024, stiamo parlando degli adolescenti, dei loro infantili genitori. Vedo che il gap elettronico, informatico rappresenta un terreno di scontro fittizio, ipotetico, inesistente. Mi scrive Maria Cristina su Facebook, Ag, proprio oggi che parli di questa cosa non ti posso sentire. Cioè, sarò in grado di essere una brava mamma per i miei due bambini? In questo mondo va sempre più in fretta. Il mondo va in fretta, basta correre veloce e poi non porsi il problema se questo comporta essere bravi genitori o meno. Quando uno corre veloce è sempre avanti, quando si è avanti si è sempre bravi. Vera Slepoi, riprendiamo, l'abbiamo tralasciata per la nostra pausa, autrice dell'età dell'incertezza, Mondadori, un libro sull'adolescenza che sembra un'età che ci stiamo inventando noi uomini contemporanei. Vera, cosa ne pensi di questa attenzione ai mezzi di diffusione elettronica, di comunicazione elettronica? Sembrano il terreno in cui esiste lo scontro e l'unica possibilità di dialettica tra generazioni. Beh, diciamo che è l'unico luogo, diciamo, di fuga o l'unica foresta circoscritta che non dà accesso al genitore. Cioè in realtà i genitori sono poco competenti su tutto quello che riguarda l'uso di internet, cioè nel senso si sono fatte delle idee che sono idee magari che hanno preso da quelli che sono, diciamo, le indicazioni degli esperti che di turno danno indicazioni sulla pericolosità e sulle tutele che devono essere date al mondo di internet. In realtà... trovi singolare, Vera, di questa nuova classe di Soloni che è nata da questi anni, degli esperti di come si devono usare i new media e come vanno addestrati i ragazzi all'uso di questi mezzi, quando sono mezzi che fisiologicamente amano e prediligono gli esseri umani che sono geneticamente nati a loro contatto. Bravo, esatto, cioè questa è una generazione che è nata con internet, quindi andrebbe vissuto da parte del genitore innanzitutto ad appropriarsi della competenza, ma vorrei dire che i pericoli dell'adolescenza non sono internet, perché comunque sia il ragazzo, il bambino che veniva messo alla prova nelle, diciamo, in quello che potevano essere le prime esperienze di vita relazionale esterna, che erano i riti di passaggio, oggi in qualche modo può essere internet, ma non è il luogo di formazione della personalità di un individuo, non è nemmeno il luogo della pericolosità di quello che può essere l'ansia e l'angoscia che un genitore intravede nel mondo esterno che il proprio figlio affronta. Semmai sono tutti quegli strumenti che il genitore non ha dato nel corso dell'infanzia. Molto spesso i genitori non sono presenti nella vita dei propri figli, non si interessano di quelli che sono in qualche modo le problematiche, le fantasie, pretendono che il figlio ad un certo punto si sieda al tavolo e parli con loro, quando magari ci sono stati 10 anni di silenzio e di poche attenzioni al mondo che cresce. Come dire, vengono dette tante banalità, come il comune che mette i bulli a guidare il pulmino, pensa di risolvere così il problema della responsabilità. Un domani sarà costretta a nominarli assessore, a fare il bullo sindaco del paese se si va avanti per questo trend. Un concetto, vedi, questo è una semplificazione che riguarda l'ignoranza e la velocità nella quale ci si precipita a risolvere un problema prima di capirlo, prima di analizzarlo, prima di comprendere che è vero sì che il bullismo nasce dalla disgregazione sociale, dalla devianza, dall'isolamento, ma non è precipitando il bullo deviato all'interno di un contesto sociale che gli risolve il problema, semmai lo puoi rendere ancora più inquieto dentro quelle che sono le proprie differenze. Questo per dire che in realtà l'angoscia e l'ansia che il genitore ha è su internet e sull'andamento scolastico. Io trovo che molti genitori non si interessano di comprendere la personalità del proprio figlio, di chi hanno davanti, di come è andata la sua crescita. Sono totalmente disinteressate, ad esempio, le madri a essere vicino alle figlie quando inizia il menarca, quando ad esempio il ragazzino inizia quello che può essere gli stravolgimenti ormonali, oppure un genitore maschio che insegna al figlio come si fa la barba, come si annoda la cravatta, quelle piccoli accorgimenti elementari, molto arcaici e un po' primitivi, che però sono legati tra l'esperienza del genitore che deve trasmettere la propria idea del mondo. Il problema probabilmente è che oggi nessuno dei noi genitori porta più la cravatta, e tenere queste barbette incolte in fondo ci dà questa illusione di aria selvaggia che abbiamo perso, perduto irrimediabilmente. Saluto Vera Slepoi, la ringrazio, comincio a sentire qualche ascoltatrice. Giulia, buongiorno. Sì, ciao Gianluca. Io volevo portare la mia testimonianza. Ma mica è un tribunale, Come? Non è un tribunale che dei testimoni. Certo, la mia testimonianza di vita. Diciamo. Racconta quello che fai, dimmi. Praticamente io ho un figlio che adesso è adulto, però gli anni della sua adolescenza per me hanno rappresentato gli anni più difficili della mia vita, perché è stata una lotta proprio, era una sfida continua. Tutti i problemi dell'adolescenza lui li ha avuti e è stato molto dura per me tenere testa. Diciamo poi che mi sono accorta anche che spesso quando loro lottano per ottenere un sì, e poi in fondo vogliono che tu dica no, perciò non sempre quello che... Beh, accade anche fra noi adulti spesso, sì, nelle, sì, relazioni. Infatti, però per noi genitori diventa difficile tenerli testa. Io poi ero da sola, per cui è stato veramente faticoso, avevo l'impressione di averlo sempre contro, quasi che non mi volesse neanche più bene. Ho vissuto con tanti sensi di colpa, perché pensavo di sbagliare, di non essere più capace di avere un buon rapporto con lui, visto che fino a 14 anni era stato perfetto, diciamo ottimo. Però poi mi sono accorta che se alla base ci sono dei principi, dei valori, dopo tutto col tempo, con la crescita, si normalizza e si recupera esattamente il rapporto che c'era prima. A me è successo così, adesso lui è grande e abbiamo un rapporto meraviglioso, senza nessun problema, insomma. Bene, a questo punto apro un'altra parentesi che sembra fondamentale. Nelle capacità di controllo indiretto, visto che questo è il grande problema, in fondo, come ci ha fatto capire la psicologa, come ci dicono le mamme, i figli sfuggono di mano, diventano materia inerte, non più riconoscibile, sembrano non fatti più della nostra carne. Noi li osserviamo attraverso sistemi indiretti, cerchiamo di guardare il loro cellulare, cerchiamo di stare tranquilli che loro non facciano navigazioni pericolose in internet, e soprattutto hanno questo rapporto, anche questo non più controllabile, con un certo tipo di televisione. Non è più la televisione dei cartoni animati, non è più la grande nutrice, non è più la babysitter di fronte alla quale li mettevamo per farli star buoni. È un mondo indeciso, indifferenziato, che noi non capiamo. Sono i telefilm mirati e strutturati e pensati proprio a prenderli per la mano e portarli dalle scuole medie fino all'età adulta. Oh, un secondo. Ciao, Pastore. Ciao mamma. Che c'è? Indovina un po'? Ho trovato un'amica. Ci risiamo. No, non è come l'ultima. Era in internet? No, non è neanche in rete. Non sarà per caso? No, è una femmina, non è una chiappa minorenni. Torna a casa, prendi un taxi, lo pagherò io. È assurdo che tu stia ancora andiamo in giro a quest'ora. Dove andiamo, F? F? Già, dove andiamo, F? A fare il pieno. Il pieno di cosa? Ciao, mamma. Dove sei? Stiamo andando a fare il pieno. Di cosa? Di che cosa andiamo a fare il pieno? Droga. Aranciata. Certo, molte mamme avranno tremato a sentire i dialoghi di Skins, che è una serie per ragazzini molto forte, molto estrema. Skins è la cartina per rollarsi le canne, che però ha trasmesso su MTV comunque il suo successo, perché rappresenta quel mondo estremo che forse lambiscono, forse vivono, forse interpretano, forse sceneggiano semplicemente senza interiormente viverlo, o molti, nei casi molto frequenti, in realtà fanno parte di quel mondo. Ciao Effi. Ciao. Entrate. Chi è questa? Pandora. Ciao. È ancora vergine. Carina. Ciao tesoro, ho messo le tue mutandine. Ok, ci si vede. Sei una scopata da ululato, lo sai? Sì, certo. Si stanno baciando come un uomo e una donna. Cassie. Mm? Sid è veramente disperato. Mm. Ti ama e gli dispiace di essersi fatto Michelle. Vorrebbe riaverti. Digli che ora ho scoperto il potere della micia. Oh, sì. Nessun ragazzino alle nostre latitudini dirà ha scoperto il potere della micia, ma evidentemente comunque rappresenta una scoperta. Ho al telefono un amico, Andrea Bellavita, buongiorno. Buongiorno. È un professore che studia televisione, direttore del master in analisi e progettazione del prodotto televisivo all'Università Cattolica di Milano. Andrea, mi servirebbe da te, visto che li studi in maniera capillare e insegni un po' i linguaggi e le strutture che stanno dietro, questi telefilm per adolescenti, che poi adolescenti è un modo di dire perché sono molto mirati e molto variegati, in fondo sono il vero libro di testo attraverso cui i nostri figli apprendono le cose della vita. Ma senti, io intanto farei una diversificazione su quali sono gli adolescenti, quali sono i telefilm, una specie di diversificazione da riforma scolastica. Noi siamo abituati, anche il pubblico italiano, essenzialmente ad entrare in contatto con due tipologie. Uno è quello che riguardano la middle class americana, cioè la scuola media, e sono le serie che vengono ospitate dai canali satellitari, quelle per intenderci dal 600 in poi, i vari Disney Channel. E questi rappresentano un particolare mondo, rappresentano un mondo molto tranquillizzante. Infatti tranquillizzano anche i genitori, guardano Disney Channel, stanno tranquilli, i ragazzi dell'intervallo, queste cosine tranquille. Certo, poi fanno una cosa un po' particolare, mettono in scena una specie di latente schizofrenia. Se noi pensiamo a un prodotto come Anna Montana, infatti di fatto rappresenta due facce di una stessa medaglia. Abbiamo una bambina goffa, una specie di adattamento del modello alla Beverly Hills, dal Tennessee arriva Malibu e che ha tutti i problemi tipici di una outsider, di qualcuno che dal mondo del profondo e assolutamente tranquillizzante e conservativo stato medio americano arriva nel paese dei ricchi, nel paese dell'aspirazione, e che con una specie di salto di invenzione si mette una parrucca e diventa l'idolo delle ragazzine. Ecco, allora diventiamo qui, fermiamoci qui un attimo perché Anna Montana è un tema, vedo che sta sollecitando molto soprattutto i miei ascoltatori su Facebook. Melog 2.0. Ti prego, il silenzio mi fa sentire i miei pensieri e questo mi spaventa. Mi rendo conto che non è facile scrivere un tema che sicuramente verrà letto da tuo padre. Lo dico perché ho provato anche io questa sensazione. Quanta roba hai scritto? È tutto qui. Harley, devi ascoltarmi ora. Se continui ad esasperarlo, tuo padre non ti lascerà mai in pace. E a te cosa importa? Beh, quando perde il controllo con te sente il bisogno di esercitare il potere sugli altri. Quindi usa l'intelligenza, voglio vedere l'introduzione fra mezz'ora. E se fossi stupida? Senti, sei già annoiata dalla vita e sarà peggio se passerai i prossimi anni chiusa qui dentro. Per cui datti da fare. Questo era Dawson Creek, un altro teen drama. Queste storie di ragazzi adolescenti che ci vengono appunto dall'America, che appassionano ragazzi a tutte le latitudini, ma se volete preoccuparvi e angosciarvi, c'è su Fox da poco Vite segrete di una teenager, vita segreta di una teenager americana, dove si parla di sesso, maternità e via dicendo. Ne stiamo parlando però con un esperto, Andrea Bellavita, che è direttore del master in analisi e progettazione del prodotto televisivo all'Università Cattolica di Milano. Andrea, ci stavi dicendo che noi non possiamo dare letture sommarie perché in realtà c'è una scientifica suddivisione in generi di questo prodotto. Sì, eravamo partiti dai più giovani, cioè dai prodotti che rappresentavano la middle class, cioè la scuola media, e caratterizzati, come diciamo prima, da questa polarità, da questa compresenza di un modello aspirazionale in grado di esaltare, di avvicinare il pubblico di riferimento, difatti i bambini, perché prodotti come quelli, ci spostiamo un po' di età, ma prodotti come il School Musical ha avuto un boom straordinario, o addirittura Camp Rock ha avuto un boom straordinario di pubblico tra i 4 e i 12 anni, quindi veramente abbassato, veramente stretto verso il basso livello anagrafico. Ma poi dove si osserva il riflesso, il risultato di questo boom? In come si vestono, nei modi di atteggiarsi, nei modi di vivere, oppure semplicemente una fruizione che non lascia segni? Ma questi sono modelli, tutti quelli che vengono rappresentati sono modelli facilmente replicabili, perché si basano su una specie di dieta mediale completa, quindi come tu dicevi, quello che ascolta, trattano, il modo in cui parlano, il modo in cui si vestono, tenendo presente che il grande brand Disney è un brand perfettamente in grado di volta in volta di mettere insieme un modello che presenta con il pubblico di riferimento. Quindi è molto più difficile vestirsi come una Winx di quanto non sia vestirsi come uno dei personaggi di questi telefilm, perché hanno già dentro di sé un linguaggio universale, linguaggio verbale, linguaggio dei codici, dei vestiti. E questo, diciamo, fa parte di un progetto, non è casuale? No, fa parte di una, non soltanto di un progetto, ma fa parte di una tradizione, di un'esperienza e di una competenza molto forte di alcuni brand che sono in grado di plasmare l'immaginario, ma spesso in maniera totalmente innocua. Allora, fermiamoci un secondo, Andrea, perché sentiamo due ascoltatori che sono in linea. Daniela, buongiorno. Buongiorno, grazie della possibilità di intervenire. Dunque, io ho 46 anni. Lei sta lavorando mentre parla? Sì, purtroppo sì. Ah, purtroppo, ci fa piacere sentire che riesce a fare le due cose contemporaneamente. Sì, mi tenete molta compagnia perché sono un computer, quindi ho la possibilità di ascoltarvi e lavorare insieme. Cioè, non voglio nemmeno pensare cosa sta scrivendo mentre parla con me. Sto digitando lettere, perché lavoro in posta. Ah, sta rispondendo all'email? No, va bene, mi fa piacere. No, sono videocodifico le lettere, un lavoro meccanico terribile. Ah, benissimo, le sue mani lo fanno da sola. Allora, senta, rispetto a quello che diceva adesso Andrea Bellavita, visto che lei ha un rapporto con un figlio che è piuttosto problematico, dice si accorge soltanto ora del fatto che ha un problema di comunicazione, l'aspetto del modello televisivo la inquieta o in qualche maniera riesce a comprenderlo? Io riesco a comprenderlo, diciamo che ho avuto un'esperienza io come figlia, posso dire che mio padre è sempre stato perennemente assente a qualsiasi mio interesse scolastico, di salute. Ma lei digita anche quando parla con suo figlio? Sì, ma non ho problemi perché è una cosa meccanica. Sì, ma forse lui magari gliene viene qualcuno a sentire la mamma che ticchetta mentre parla. Purtroppo sì. Lei ha una protesi da cui non si può più staccare ormai? No, ho anche le pause controllate, mi posso staccare solo 8 minuti ogni ora, funziona così. E non si stacca mai? Ho 10 minuti ogni ora di pausa. Ma lei che mette questo bip o la sua macchina? È la macchina. Ah. Quando devo mettere il numero civico della lettera. Ah, benissimo, va bene. È invidiabile comunque una mamma così perfettamente integrata con la macchina. Sentiamo Filiberto. Filiberto. Ciao, dimmi tutto, lo dico io a te. No, dimmi, hai telefonato, quindi hai due figli. Parlavi prima di sicurezza e di internet, poi hai cambiato argomento parlando di televisione, che si occupano di entrambe le cose. Sì, sono sempre rapporti con macchine che creano un immaginario che il genitore, che ha un figlio adolescente, deve in qualche maniera conoscere, contenere, deve riuscire a capire quali sono i forti messaggi che arrivano da questo immaginario rispetto a quelli più deboli che da lui. 14 il maschio e 10 la ragazzina, ci siamo dati delle regole molto semplici, sembrano funzionare, cioè possono guardare la loro televisione e i loro telefilm, possono iniziare a usare internet, ma lì è un discorso diverso perché io lo uso anch'io da ragazzino, quindi insomma, hanno trovato 7 computer in casa loro, quindi sanno cosa succede. E la regola è quella di guardare e di parlare con me e con la mamma, cioè nel senso che anche di fronte ai primi siti che a 14 anni, come dire, incrocia un ragazzino, non se li tiene per sé, ma dice papà ho visto questo, mamma guarda cosa ho trovato. Se riusciamo a parlare, anche per i commenti in televisione che guardano il sesso, che magari non mettere in difficoltà, se noi parliamo, spieghiamo, non nascondiamo, vabbè, facciamo un sacco di fatica e c'è qualche imbarazzo, però aiuta. Andrea, solo una battuta, 30 secondi in conclusione. Vedo che comunque la grande attenzione e la grande angoscia è sempre legato ai fattori estremi, il sesso, la trasgressione, ma in realtà, se non lo dici velocemente, qual è il messaggio che condensato può passare, che a volte sembra più impalpabile, però probabilmente andrebbe anche conosciuto attraverso il telefilm? tanto che ci possa essere la compresenza non tanto di due, di una normalità e di un estremo, ma di due personalità che in maniera quasi incomprensibile possono convivere, cioè che ci sia la possibilità di essere due persone contemporaneamente, due gemelle, una persona normale, la sua aspirazione, due amici, un lato B e un lato A, e questo in qualunque modo lo si guardi è una traccia di schizofrenia. Quindi vediamo che a questo punto la famiglia mononucleare, la famiglia distrutta, la famiglia massacrata, la famiglia ricostruita, ha anche questo nuovo problema della molteplicità delle situazioni in cui si deve porre l'adolescente e il genitore, non soltanto di fronte agli esseri umani, ma anche di fronte agli esseri umani che evocano le macchine. Ma il discorso complicato lo riprenderemo. A domani. Email melog@radio24.it. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.